Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, due partite, sei punti, ma non solo. Una nazionale che piace, che dà una sensazione di freschezza, di rinnovamento autentico, di un nuovo rapporto col pubblico, anche con un pubblico non proprio conciliante, no? In partenza qual è quello tradizionalmente quello fiorentino. Dall'altra parte, il rapporto tra Prandelli e Firenze, e quindi insomma, una cosa consolidata con qualche robusta spruzzata di viola in azzurro che non guasta mai, una volta si chiamava geopolitica, il valzer dei giocatori che si sono alternati, il valore, anzi il disvalore degli avversari. Messo tutto insieme e frullato, ne esce, a parer mio, la necessità di una lettura anche in controluce, non soltanto in luce, che affiderei a un maestro come Adalberto Bortolotti. Buongiorno Adalberto, bentornato. Ciao Gigi e un saluto a tutti i tuoi ascoltatori. Io credo che l'entusiasmo sia legittimo, come l'entusiasmo o comunque la positività sia legittima per quello che si è visto e perché l'atmosfera è quella. Quando si riparte dalla fossa delle Marianne, poi non si può che risalire con la controspinta. È tutto oro quello che sta cominciando a luccicare? Beh, per quello dovremmo aspettare un po', però l'entusiasmo, a mio avviso, è non solo legittimo, ma è anche positivo. Nel senso che dopo un mondiale del genere c'era il rischio di cadere in depressione. Ecco. Onestamente Prandelli ha toccato le corde giuste, devo dire, squadra che ha incontrato un solo avversario attendibile e ha perso, cioè sì. La Costa d'Avorio, sì. Un amichevole. Però che dà speranza se non altro in un gioco meno asfittico di quello dell'ultima gestione Lippi, in individualità più capaci di catturare il pubblico. Certo, secondo me non è ancora una squadra competitiva ai massimi valori europei questa, però può diventarlo. E comunque ha cominciato nel modo giusto, insomma, anche quest'opera di riavvicinamento del pubblico, operata sia attraverso il gioco sia, direi, nei comportamenti. Mi è parsa una nazionale poco divistica, molto disponibile anche a leggere le cronache dei ritiri, eccetera. Sì. Tutto questo induce ad avere buone speranze. Il girone si è messo subito bene e non era proibitivo neanche all'inizio, però questo è un discorso pericoloso perché un girone facile come quello dei mondiali non l'avevamo visto mai e sappiamo com'è finita. Ecco. Esatto, io credo che la svolta sia stata assolutamente casuale, e cioè sia stato quel colpo di testa di Cassano a Tallinn. È sempre meritorio far gol, raramente ho visto gol più casuali, nel senso che Cassano è entrato, cioè non l'ho visto come non l'hai visto tu e come non l'ha visto nessuno, abbiamo poi rivisto dopo che nessuno è saltato e che è bastato che un azzurro davanti facesse vento per creare la corsia preferenziale e la alla schiacciata di Cassano. Ecco, fino a lì mi era sembrata un'ora di Italia davvero imbarazzante, considerato anche il valore modesto a sua volta dell'Estonia. Evidentemente i giovani, penso almeno io, ma tu confortami, i giovani e quelli che ripartono hanno bisogno, gli basta poco per sì. Trovare un po' l'entusiasmo. Però una spinta ci vuole. Sì, ed è giusto, devo dire onestamente. Gol storico appunto perché invisibile, no? Uno dei sì. Gol invisibili della storia del calcio. E imprevedibile però anche perché Cassano ha un ampio ventaglio di realizzazioni a sua disposizione. Il colpo di testa su calcio d'angolo non direi che come percentuale è in coda alla graduatoria, insomma. Esatto. Però ecco Cassano, vedi, e quella è stata una partita, quella con l'Estonia, inguardabile per un tempo, poi vabbè, dopo la soddisfazione ha preso agio sul livello tecnico che non si è mai molto innalzato. Però Cassano in tre minuti ha risolto una partita che stavamo perdendo. E quando adesso sembra di parlare a cose fatte, quindi esprimere opinioni troppo facili, ma quando si auspicava una presenza di un giocatore o il Cassano stesso o alla Cassano, cioè di grande qualità nella nazionale del Sudafrica, si faceva, almeno da parte mia, si pensava a questo, su questo, cioè questo. Quello che ti può cambiare la vita in tre minuti, nessuno, certo, di quelli che era là era in grado di farlo, ecco, questo è stato il torto, l'amputazione, l'autoamputazione che ci siamo fatti che lì in quel mondiale. Poi è chiaro, magari adesso quando gli avversari diventeranno fortissimi anche Cassano si ridimensionerà, ieri ha fatto il fenomeno e chiaramente quelle giocate che ha lui anche contro le Faraoer non li hanno in moltissimi, ecco. Poi sono riproponibili a ben altro livello, però vanno ancora verificate. Il primo intervallo, chiedo scusa, con un leggero ritardo, comunque pur sempre di gran lunga inferiore a quello con cui è partito il programma, come molti ascoltatori mi fanno, ahimè, notare. Il primo dato confortante, mi pare, caro Adalberto, che è questo, che i giovani alla fine ci sono, o comunque ci sono, un certo lo ha testimoniato ieri anche la vittoria dell'Under 21, Mustacchio e altri ancora, qui De Silvestri, qui Antonelli e qui altri. I giovani ci sono, poi si tratterà di vedere fino a che livello sono proponibili in questo modo così autorevole, però intanto qualcosa c'è. No, qualcosa c'è sicuramente, uscendo dalla suggestione Cassano e guardando un po' nel suo complesso questa nazionale, il centrocampo con tre giocatori di qualità è sicuramente interessante. Questa è bella novità. Se non inedito. Ecco. Sì. Cioè Pirlo, Montolivo, De Rossi. Anche questo andrà valutato in partite in cui la palla l'avranno spesso anche gli altri, non solo quando l'abbiamo sempre noi. Però è sicuramente uno sbocco obbligato, cioè, la Spagna insegna, a metà campo devi avere gente che sa giocare al pallone, ecco. Quindi è diventato indispensabile per mantenersi o per arrivare a certi livelli. La difesa è ancora un laboratorio, un cantiere, cioè, stiamo vedendo prove di giovani che cambiano giustamente da una partita all'altra, alcuni interessanti, altri forse meno, però ad esempio Bonucci mi sembra già una realtà su cui insistere. Il portiere finora non l'abbiamo visto, Versirigo è stato sfortunato, sì, diciamo così, in Estonia, Viviano ieri non ha toccato palla praticamente, e quindi in attesa del ritorno di Buffon la graduatoria è ancora, visto anche che Marchetti è stato vittima di una delle follie del nostro calcio, insomma, che sì, riesce a anche privarsi dei pochi attu che si ritrova in mano, quindi diciamo che a me non sono dispiaciuti i due di ieri, però fatta sempre salva la considerazione che non hanno giocato una delle due fasi, e per quella difensiva, certo, la fase difensiva è direttamente importante, sì, certo, perché è più facile indubbiamente spingere quando sai che alle spalle rischi così poco, no? Rischi praticamente nulla. Delle rifondazioni azzurre, qui mi rivolgo al Bortolotto storico, delle rifondazioni azzurre, per esempio 86 dopo il Messico di Berzot, per esempio 66 più ancora dopo il disastro Corea, che credo sia paragonabile come situazione a questa. Ecco, mi pare che proprio il centrocampo di qualità, come hai tu detto, e cioè i tre costruttori di gioco in quei tre ruoli, sia una novità che forse può apparentare in un certo senso questa nazionale a quella di allora da cui ripartiva il Careggi dopo l'Inghilterra 66. Che ne dici? Sì, e anche quella, secondo me, da cui ripartì Bernardini dal, sì, semidisastro del 74. Del 74, esatto. Quella in quest'ultima che ho citato, in un certo senso ci può rappresentare analogie maggiori nel fatto che si trattava di pensionare dei veterani gloriosi quasi in blocco. Allora addirittura furono contemporaneamente messi a riposo tre mostri sacri come Rivera, Mazzola e Riva, certo, ecco. E Bernardini, a prezzo di sconfitte, quindi di critiche, insulti, però riuscì ad allestire un reparto di giovani, di Quantognoni, per dire, più o meno in quel periodo venne avanti Tardelli, mi pare, e poi c'erano anche due giocatori fermati dalla sfortuna come Roggi e Rocca che promettevano molto. Insomma, si andò a innovare anche brutalmente, nel senso, senza un passaggio traumatico, però alla lunga, e grazie anche alla saggezza di Berzot, quel lavoro risultò prezioso. Ecco, questo è anche un augurio. Però se si deve trarre una lezione, secondo me è proprio questa, e secondo me Prandelli l'ha capita. Bisogna avere il coraggio di andare a esplorare l'ignoto, ecco, pur sapendo di pagare un prezzo. È inutile una soluzione di compromesso, ecco, di salvare il più possibile del vecchio. Si può proprio salvare l'indispensabile. Ecco. Si può e sì. E si deve oggettivamente. Sì. Un paio di domande ancora. Quella di rivedere in tribuna insomma, monumenti del nostro calcio, come sia pure di epoche diverse, come Rivera e Baggio, quella di sapere che ieri all'Under 21 c'era Sacchi, che a sua volta ha già assunto un ruolo comunque in qualche misura operativo all'interno di Federcalcio. Ecco, tutto questo, tre nomi del genere, sono suggestione, sono una mano di vernice, no, una mano di biacca a quello che si è sgretolato in Sudafrica, oppure a parer tuo è qualcosa che può alla lunga incidere? Io mi auguro che la decisione in sé eccellente non sia dovuta solo al voler buttare un po' il fumo negli occhi o comunque crearsi uno scudo di lusso, però la scelta di giocatori che hanno fatto la storia di una nazione, la storia calcistica di una nazione, o di tecnici che hanno fatto la storia, è un fatto normalissimo all'estero e che da noi non trovava cittadinanza. Esatto. Quindi in questo senso io lo trovo un adeguamento a quel, non dico culto, ma comunque rispetto della memoria che bisogna avere, e che noi invece a un certo punto di cui noi adottavamo il contrario, sì, cioè l'ingratitudine. Con l'eccezione di Riva era veramente trascurare un patrimonio. Sì, appunto, ma lo stesso Rivera, se pensiamo quanto tempo abbia trascorso fuori da un mondo al quale avrebbe dovuto e potuto dare molto. Ecco, Baggio ha avuto più fortuna, nel senso che è stato raccolto ancora giovane. Certo, vedere in tribuna Rivera, Baggio, Riva è una bella faccia del nostro calcio, diciamo la verità, insomma, se si illustrano gli occhi, ecco. Non c'è, soprattutto per chi li ha visti e li ricorda. L'ultima domanda, perché poi di campionato parleremo presto, ma insomma in un'altra occasione, è questa. Tu pensi che il campionato di quest'anno possa davvero fornire qualcosa di interessante a Prandelli, come da queste prime battute si potrebbe ricavare, no? Col coraggio che lui ha avuto di scelte innovative, oppure tu pensi che la dittatura degli stranieri, cioè quella dell'Inter tutta straniera, ma quella, l'attacco del Milan che adesso voglio dire, probabilmente sarà al centro dell'attenzione, magari anche al centro dei risultati in futuro, ma che si impernia soltanto su Ibrahimovic e sui brasiliani, e quindi tutto questo è destinato a rientrare, tutto questo fenomeno azzurro, diciamo, di, se non di crescita, perlomeno di speranza, è destinato a rientrare e a lasciare il posto al resto che conosciamo e che magari è anche divertente, ma che non è utile in funzione azzurra, oppure in qualcosa speri quest'anno? No, io in qualcosa spero, perché poi al campionato bisogna sempre fare riferimento. Io credo che il difetto maggiore dell'ultimo Lippi sia stato proprio quello, non solo di non badare al campionato, ma di andare contro alle indicazioni del campionato. E in questo senso, ad esempio, vediamo un lato positivo. Nel Milan un attaccante di interesse nazionale come Borriello, anziché trovare la strada sbarrata, ha una chance in una squadra forte componente italiana come la Roma, certo. Dove ritrova non solo il De Rossi ma anche Totti accanto, e non è poco. Così come la Juventus, fra mille tribolazioni, sta nascendo con una componente italiana molto numerosa e anche, io mi auguro, qualificata. Credo anche che Prandelli, proprio per il suo percorso da allenatore, sia particolarmente sensibile ad andare anche a raccogliere le realtà del campionato al di fuori delle solite grandi o di immediato rincalzo. Mi sembra che le convocazioni iniziali lo dimostrino, insomma ci sono giocatori interessanti, io credo con attenzione, andandoli a cercare con attenzione e competenza si possono trovare. Io farei ad Alberto, riallacciandomi all'anno scorso e a quello che stanno combinando adesso, io farei l'esempio del Bari per dire, se vogliamo per una volta provare a pensarla in positivo, la coppia centrale del Bari, Bonucci e Ranocchi, dello scorso anno, io credo che tra poco, se la vediamo al completo, a distanza di poche ore hanno contrassegnato due momenti molto favorevoli del nostro calcio nazionale. Ranocchi come leader della Under e Bonucci come ormai titolare della prima, credo che si possano ricomporre nella nazionale maggiore a scadenza relativamente breve. Ecco. E l'augurio che ci facciamo tutti. Ad Alberto, a presto per il campionato. A presto. Grazie. Si diceva con Adalberto Bortolotti, e tra poco poi arriveranno i vostri interventi, che insomma due sono gli elementi emersi sin qui dalla partita di ieri, ma partendo già da quella vinta in Estonia, e cioè che l'Italia sta ritrovando un po' di appeal con il pubblico, e dall'altra parte che realisticamente questi sono stati avversari morbidi, soprattutto quelli di ieri sera, e presto o tardi arriveranno difficoltà che offriranno controprove, e lì bisognerà poi davvero misurare la statura. Sono due degli argomenti che Prandelli ha affrontato stamane in conferenza stampa. Proprio quello di riconquistare la gente, di riconquistare il pubblico, è uno dei primi punti che Prandelli ha toccato. L'idea era proprio quella di riportare, non dico solo sorriso, ma entusiasmo, voglia di riconoscersi in questa squadra, e stiamo lavorando su questo, insomma. Non è che dobbiamo fare poi molto, basta poco, tante volte un minimo di attenzione, un po' di disponibilità, la voglia di far capire alla gente che viene allo stadio. L'abbiamo notato subito alla vigilia quando siamo entrati in campo, c'era un po' di gente, i ragazzi senza dir nulla sono andati a salutare, quindi è da lì è iniziato un po' l'abbraccio con la gente. D'altra parte è altrettanto consapevole Prandelli che, vi dicevo prima, poi qualche difficoltà dovrà arrivare. Allora sentiamo ancora anche questo passo. Ovviamente dopo una vittoria ci sono sempre tanti aspetti positivi, però non ci dobbiamo fermare lì, dobbiamo comunque pensare che è solo l'inizio, ci saranno delle difficoltà veramente impegnative, però mi sembra che si stia iniziando a creare attorno alla squadra nazionale qualcosa di bello, un entusiasmo, una voglia di partecipare, una volta di essere coinvolti. Quindi dobbiamo prendere questo aspetto e lavorare su questo. Chiaro che dipende molto dal nostro atteggiamento in campo, dalla disponibilità che danno i ragazzi e dalla generosità che abbiamo chiesto in questi giorni. E che mi pare sia stata poi in campo mantenuta da molti punti di vista. I primi ascoltatori di oggi, per esempio Gianfranco da Napoli, buongiorno. Salve, buongiorno. Dica. Vorrei solo fare un parallelo con Donatoni, nel senso che Prandelli le prime due partite ha giocato con l'Estonia e la Faroe in casa. All'epoca Donatoni esordì in Francia contro una squadra agguerrita nei nostri confronti. I primi tre gol della gestione Prandelli, diciamo, nelle qualificazioni sono venuti da calcio d'angolo, cioè da fermo. E questo gioco effettivamente non l'ho visto, e soprattutto ho visto un Cassano, differentemente da quello che dice appunto il telecronista Rai, in grossa difficoltà fisica, nel senso non ho mai visto superare l'uomo, ha fatto tante giocate da fermo, e questo sicuramente gli è riconosciuto. Grazie. Al di là della valutazione su Cassano, che in parte condivido, sì, lei ha posto indubbiamente due differenze, tant'è vero che prima, parlando con Adalberto Bortolotti e cercando qualche parallelo storico di rifondazione azzurra, quale quella che è in corso in questo momento, certamente non siamo tornati a 2006, perché lei ha ricordato la diversa statura degli avversari. L'Italia debuttò con la Francia fuori casa, se non ricordo male, e con la Francia che era appena stata, anzi non battuta, era appena stata pareggiata nella finale mondiale, e poi ci furono i calci di rigore, quindi l'ostacolo più alto possibile in quel momento contro invece l'Estonia e le Faroe. Questo è un dato di fatto. Donadoni aveva una difficoltà in più, un aggravante vera, che ereditava una nazionale che aveva vinto, mentre Prandelli ha ereditato una nazionale che non solo che ha perso, ma che ha fatto la figura che sappiamo, ed è sempre più facile venire e ricostruire che non venire e mantenere o rilanciare ulteriormente. Quindi può anche darsi che queste osservazioni che già stiamo facendo con un certo beneficio all'inventario, può anche darsi che vadano prese con un beneficio ancora superiore, però è anche vero che qualche segnale, piccolo segnale incoraggiante c'è, e forse non piccolo in rapporto alla qualità dell'avversario. Vedremo adesso, è un calendario abbastanza graduato, perché anche l'Irlanda del Nord e poi la Serbia in casa oltretutto non sono ostacoli di primissimo ordine, ma già daranno comunque un riscontro superiore. Si tratta di salire per gradi, il calendario da questo punto di vista aiuta, mi pare, l'Italia. Tocca a Duilio da Milano, buongiorno. Buongiorno, che il signor Bortolotti ha fatto una spaziata su tutti i temi, fra cui quelli che volevo intervenire io. Sì. Però io ho avuto un passato, cioè un recente passato di allenatore di squadre giovanili, e a me mi prendevano in giro perché ai ragazzi li facevo lavorare molto al muro, e le posso dire che a livello di Serie D eccetera c'è qualcuno che gioca, ancora oggi vanno famosi per avere il piede morbido. Sì. Io in questa nazionale vedo poca gente col piede vellutato, anzi ci lavorano addosso in modo ruvido al pallone, come diceva il grande Gianni Brera, sono degli arcolai, dei ruvidi arcolai, se lei si ricorda, no? Sì. E poi un'altra cosa, non è che io mi fido molto di Cassano, anche perché lo vedo grasso, è un frattacchione, c'ha due chiappe, ragazzi, che quando aumenteranno i ritmi anche lui avrà le sue difficoltà, e poi anche intellettualmente non è l'uomo che può trascinare una nazionale, diciamocelo chiaro. Ecco, io volevo ribadire solo questo, grazie. Sì, sì, ma sono osservazioni più che legittime. Tenga conto che il frattacchione è fatto d'acciaio, perché poi è vero che è abbastanza in carne, ma è vero anche che è tosto, questo, perché poi ad andargli contro quando appena appena Cassano si rigidisce è l'altro che finisce a terra sempre, in qualunque situazione di equilibrio sia lui. Quindi insomma anche di questo va tenuto conto. È ovvio, tutto va preso un tantinello con beneficio d'inventario. Lei è partito dal discorso, dallo stesso di Adalberto, poi lei ha citato Brera e invece Adalberto ha citato Bernardini, e cioè la sua ripartenza dai piedi buoni che avvenne nel 74. I piedi buoni fu lo slogan di allora. Qualche piede buono in quest'Italia indubbiamente c'è, ce ne sono anche alcuni ruvidi, questo è vero, ma insomma la classe non si inventa da oggi a domani, e sappiamo anche, purtroppo, lei è un allevatore di ragazzi, no? Mi pare di avere tra l'altro capito, se non ho capito male, e lei sa che oggi purtroppo la tecnica individuale è l'aspetto che viene meno curato, purtroppo, insisto, nei vivai e in allenamento, perché il calcio è diventato troppo fisico e troppo poco tecnico. Questo è un riscontro. Quando arriva una generazione di gente tecnicamente valida o validissima o strepitosa come sono gli spagnoli, il fisico passa in secondo ordine, perché loro l'europeo prima e il mondiale poi l'hanno vinto giocando a pallone, col palleggio e con la sensibilità del piede. Quindi questa potrebbe essere una lezione, no? Per chi in tutti questi anni ha investito, non dico soltanto, ma comunque a larga maggioranza sulla fisicità. Fabio è in linea da Modena, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Dica. Volevo intervenire sul discorso intanto Cassano. Mi sembra che dai tempi di Zola, Mancini, Baggio, Totti, Del Piero sia l'unico giocatore a cui viene concesso 95 minuti anche quando sta fermo in campo. Io mi ricordo i tempi di Totti o addirittura di Del Piero, che al 55esimo vedeva sempre il suo rivale riscaldarsi e tutto il pubblico chiaramente invitava sempre il cambio. Cassano sia contro l'Estonia, soprattutto contro l'Estonia, era fermo in campo, ha giocato tutta la partita, nessuno ne invita al campo, i cronisti, i giornalisti Rai ormai patetici si emozionano anche solo per una rimessa laterale, e poi cosa combina Cassano? Vedremo. Giocando contro la nazionale più debole della storia del calcio. Ma infatti non è tutta una questione, è tutta una questione di controprove. D'altra parte, insomma, siamo inizio stagione, nessuno è mai al massimo della condizione, perlomeno nel calcio italiano. Ad inizio stagione non può esserlo nemmeno Cassano, ha dato segnali incoraggianti fino a questo momento, secondo me più comportamentali che tecnici. Io sono d'accordo che c'è stata un po' tanta enfatizzazione dopo queste due partite, soprattutto dopo la prima, su Cassano, però è anche, insomma, è anche giusto che se arrivano dei segnali positivi da parte del giocatore, che sono i primi della carriera, come lui per primo ha riconosciuto, sia giusto coglierli e sia giusto, entro certi limiti, se non enfatizzarli, perlomeno sottolinearli. Io sentirei a questo punto, chiedendo un attimo di pazienza agli ascoltatori già collegati, sentirei però anche la soddisfazione di Casiraghi, perché insomma ieri né per Italia Galles né tantomeno per Italia Faroe è stata compiuta alcuna vera impresa ieri, però la rimonta che l'Under 21 è riuscito ad effettuare in classifica qualificandosi per quest'altra fase, quando non molto tempo fa sembrava super spacciata, beh, comunque qualche significato ce l'hai. Allora sentiamo la soddisfazione di Casiraghi. Sì, no, è stata sudata in tutti i sensi, fino alla fine abbiamo fatto due partite decisive, vincendo entrambe 1-0, giocando bene con una squadra a cui mancavano tanti giocatori importanti, però quelli che hanno giocato hanno fatto benissimo, quindi sono felice, anche se non abbiamo ancora ovviamente guadagnato la qualificazione all'Europeo, perché ci sarà il barrage di ottobre, però insomma, per come eravamo messi un mese fa, un paio di mesi fa, che ci davano tutti fuori, è una bella soddisfazione. Ed è una grande soddisfazione quella che ha riguardato questo goleador dell'Under 21, per l'appunto, che è di proprietà della Sampdoria ma gioca nel Varese. Mustacchio, sentiamo anche lui. È stato bello, che è stato lanci profondità del mio compagno di Morrone, e tu per tu col portiere l'ho piazzato. Molte volte in primavera rimanevo senza passaggio, magari ero lungo la strada a aspettare che qualcuno me lo desse, e Antonio più volte si è fermato, ad accompagnarci, quindi questa è anche una bella cosa. Antonio Cassano, che aveva adottato in un certo senso alla Sampdoria questo ragazzo. È stata una buona giornata per tutti e due, buona giornata per Cassano ieri e una ottima giornata per Mustacchio, che come abbiamo sentito è stato anche ai tempi delle giovanili doriane un suo protetto. Torniamo in vostra compagnia con Matteo, ha chiamato da Lucca, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Senti, volevo fare un intervento per parlare del pubblico di Firenze, perché io ieri ero allo stadio a vedere l'Italia. Sì. Dunque, allora, siccome sui mezzi di informazione non è stato scritto niente di tutto ciò, a parte i fischi di Quagliarella, volevo, diciamo, partecipare a tutti il clima che c'era allo stadio a Firenze ieri sera. Allora, non c'è stato un coro a favore dell'Italia dall'inizio alla fine, solo cori per Firenze, per la Fiorentina, cori contro la Juve, cori contro la Roma, cori contro Marcello Lippi e via discorrendo. Fischi per Quagliarella ogni volta che è entrato in campo, che hanno toccato il pallone. Ditemi voi se questo deve essere un clima. Io vado a vedere la partita nazionale pensando a una festa, però ora si sente sui giornali anche il pubblico di Firenze magnifico, splendido. Bene che la gente sappia, perché forse in televisione si è percepito poco, qual era il clima a Firenze ieri sera? Ditemi voi se è normale far giocare una nazionale in uno stadio del genere. Poi è un problema che probabilmente riguarderà anche altre città. Sì, però sì, ieri sera a Firenze c'era questo clima, e sfido chiunque allo stadio a dire l'incontrario. Ma non è, probabilmente non è stato sottolineato con più forza, con più accentazione, perché i fiorentini sanno far di peggio. Questa è una convinzione oggettiva, storica, che perlomeno io ho e che mi pare la memoria ci possa aiutare a ricordare. E mi piaceva leggervi la rubrica Buongiorno di oggi di Massimo Gramellini, il vice direttore della Stampa, perché l'argomento è quello trattato a lungo ieri e anche ieri l'altro, e cioè la gigantografia triestina, insomma, che ha riempito le pagine che riempito le pagine dei giornali. E Gramellini ha colto, come non dico sempre, ma spesso gli accade, forse quasi sempre, un'angolazione particolare di questa. Di questa novità, insomma, di questa trovata, e l'ha presa dal punto di vista sociale. Eccola qua, la foto dello stadio di Trieste, scrive Massimo Gramellini, ripeto, con le sagome dei tifosi a posto di quelli veri che allo stadio non vanno più, esprime un disagio che va molto al di là del calcio. Il fenomeno della bassa marea umana non ha svuotato una gradinata qualsiasi, ma la tribuna opposta a quella centrale, i distinti, che nella gerarchia sociale degli stadi rappresentano il ceto medio. Nelle curve vanno i giovani, va il popolo sanguigno e poco danaroso. La tribuna principale ospita i VIP, i ricchi, i giornalisti, le vecchie glorie e gli imbucati. Insomma, i privilegiati. Resta il settore più ampio, destinato in teoria alla classe più numerosa, quel ceto medio che può spendere ma non troppo e però non rinuncia alla possibilità di veder bene lo spettacolo, che a chiunque lo osservi da una curva risulta invece schiacciato dalla prospettiva. I distinti rappresentano una scelta di buon senso, rassicurante, costruttiva. Se la curva è un'utilitaria e la tribuna un SUV, i distinti sono una berlina, più utile che bella e però comoda, solida, spaziosa. Il guaio, conclude Gramellini, è che con la crisi economica nei distinti ormai non ci va più nessuno, non solo a Trieste. Fra i borghesi che li abitavano, i più arrabbiati sono finiti in curva a fianco degli ultra. I più furbi e ammanicati si sono sistemati in tribuna e tutti gli altri, la stragrande maggioranza, a casa, davanti alla TV. Ma un calcio è un mondo dove hanno voce solo gli ultra e i privilegiati è qualcosa di zoppo, isterico e triste, perché è il popolo dei distinti che dà il tono a uno stadio, a una comunità. Beh, si può leggere in chiave calcistica e non solo, evidentemente, una riflessione a voce alta di questo genere. Filippo, in linea da Bergamo, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Niente, io sentendo alcuni commenti di prima, no? Non sono riuscito a non intervenire, perché penso che noi italiani siamo troppo forti. Pochi mesi fa abbiamo trafitto Lippi, l'abbiamo accusato di tutto, che non ha portato Cassano in nazionale. Adesso sento commenti che Cassano è ciccione, che non salta l'uomo, ma io non lo so, se mi trovate un altro con cui possiamo sostituire Cassano in questo momento, io sarei ben lieto di sentirne uno. Ma io penso, Filippo, che Cassano non sarebbe stato la panacea prima e non sia indispensabile oggi. È certamente un giocatore prezioso che nel frattempo è cambiato, si è voltata una pagina ed è abbastanza normale con quello che è accaduto che insomma, nel calcio si cambia opinione con grande facilità e non solo nel calcio, ma nel calcio in particolare cambiano le cose in grande velocità. Le faccio un esempio di altro genere per spiegarlo. Se fino ai pronostici pubblicati in tutti gli inserti di vigilia del campionato da tutti i quotidiani sportivi e ripresi e comunque fatti a loro volta da tutte le televisioni davano l'Inter in pole position con un vantaggio siderale nei confronti della concorrenza. Poi il Milan ha comprato un giocatore e prima ancora di Robinho tutte queste valutazioni sono letteralmente saltate per aria. Ora, se lei calcola che l'Inter nel frattempo è anche campione d'Europa in carica e che il Milan veniva dalla stagione che sappiamo, lei ha la riprova che nel giro di una settimana forse meno, è cambiato tutto e quindi si immagini se non possono cambiare valutazioni e prospettive nel giro di due mesi, quelli che ci separano dall'infausto Sudafrica. Sentirei ancora Ettore dalla provincia di Torino, buongiorno. Sì, buongiorno, io dica. Volevo sdrammatizzare un po' la cosa, come direbbe un proverbio piemontese, no? Piuttosto che niente, le mai piuttosto. Voglio dire che potremmo anche dire ora se non eternamente e a volte meglio che niente. Sai che è una bella sintesi la sua, piuttosto di niente è meglio piuttosto. È meglio piuttosto, per sdrammatizzare, perché poi alla fine voglio entrare in altre disamine tecniche. Ma non solo per sdrammatizzare, perché secondo me questo è un ripasso dei fondamentali, quello che lei ci ha proposto, ma che non vale soltanto per il calcio. Bravo. No, perché ero qui in macchina su queste cattedrali che sono le tangenziali, le tangenziali sono le cattedrali del nostro tempo. Sì. Io ci provo, perché non va mai bene niente, santa miseria, no? Ma lasciamoli lavorare, lasciamoli giocare, no? Siamo tranquilli, piuttosto. Poi, obiettivamente, no? Uno parla dall'esterno, ma l'intensità, come diceva lei prima, con cui tocca la palla un Cassano, la forza, no? ma questa gente che parla se la scorda, non ha mai visto una partita, secondo me. Una buona fetta. Il calcio lo ha visto di lontano, comunque lo ha visto giocato da altri, su questo ho sempre avuto pochi dubbi. Ettore, grazie, e faremo tesoro di questo. Piuttosto di niente è meglio di piuttosto. Mentre chiedo invece alla regia di far partire, visto che siamo nel sottofinale, direbbero quelli che sanno, direi di far partire la sigletta. Sport e motori. Si è riunita in mattinata a Parigi il Consiglio Mondiale della Federazione per stabilire la sentenza sull'ordine di scuderia secondo cui Massa avrebbe lasciato la vittoria di Alonso nel Gran Premio di Germania del 25 luglio. La Ferrari è già stata multata di $100,000, la sentenza dovrebbe arrivare, la sentenza sportiva dovrebbe arrivare nel tardo pomeriggio. Adesso noi sentiamo il commento di Angelo Sticchi Damiani, presidente della Commissione Sportiva Automobilistica Italiana ed è uno dei due membri italiani in questo board della FIA. Qualche dubbio può sorgere sul comportamento, diciamo, di Massa, ma sicuramente Alonso era più veloce e quindi era logico che Alonso lo superasse, era nei fatti. Potrebbe anche esserci una proposta tipo un aumento della sanzione pecuniaria. Secondo me, secondo noi, la sanzione pecuniaria inflitta è più che sufficiente. Ma quando anche ci fosse questa ipotesi, si può anche ragionare su questo aspetto. Togliere dei punti non solo è eccessivo, non solo è profondamente ingiusto, ma io penso che si aprirebbe comunque una spaccatura profonda, non perché la Ferrari, attenzione, sia intoccabile. La Ferrari è toccabile come sono toccabili tutti. Però se ci dovesse essere un accanimento, credo che la Ferrari ha tutti i buoni motivi per sentirsi in qualche modo danneggiata. Per oggi è tutto, grazie a Franco Piantanide in redazione, a Filippo Aureggi in regia, appuntamento a domani. A tempo di sport.